Vendo tutto di Matteo Caccia. Da quando ho iniziato il programma ho smesso di giocare a tennis, sciare, suonare la chitarra, girare in Vespa e molto altro, perché le abitudini sono sempre legate alle cose che possediamo. Eppure io continuo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un paio di scarpe col tacco. È una brutta roba, Quando si sbaglia il regalo che devi fare ad una donna, che sia la tua fidanzata, la tua ex, tua mamma, tua sorella, è proprio una brutta roba. Nel senso che quella sensazione che sia di due mondi diversi proprio si apre come un ventaglio e ti fa capire che non ci hai capito veramente niente. Prima un'ascoltatrice sul profilo Facebook mi ha mandato una lista dei regali, credo che questa sia riferita all'8 di marzo, dei regali da fare alle donne, e tra i più sbagliati ci sono in ordine un pigiama, un anello, un mazzo di fiori, e non l'avrei mai detto, dare il suo nome ad una stella, vabbè, in l'inaugurazione di un negozio, che non so che tipo di regalo possa essere, è una cena molto romantica. 800240024 oppure 349-238-6666, uno per le telefonate e l'altro per gli SMS. Solo donne, oggi solo donne, e mica perché è l'8 di marzo, ma solo perché oggi parliamo di quei regali che vi hanno fatto, possibilmente magari vostro marito, fidanzato, o magari anche figlio o papà, che era completamente sbagliato, proprio che non aveva niente a che vedere con quello che voi avreste mai voluto avere nella vostra vita, proprio un regalo totalmente fuori luogo, un po' come le scarpe che regalai a Giulia qualche tempo fa e che potete vedere ovviamente sul sito radio24.it e che sono in vendita a partire da questo momento. Tra l'altro, prima invece sul profilo Facebook del programma mi hanno scritto invece due donne per dirmi che qualche volta gli uomini i regali giusti li fanno, e una è Alessandra che mi dice: un regalo che mi ha divertita e stupita fu un cuscino a acchiappasogni. Aia. Realizzato gonfiando con aria compressa una busta da imballaggio trasparente, così svegliandomi avrei visto il sogno. Ero sciolta, liquefatta, totalmente conquistata. Un regalo unico che mi aveva fatta sentire unica. Bella lì, Alessandra, vorrei sapere poi che fine ha fatto. No, non il cuscino a acchiappasogni, ma la storia. Invece Mariangela mi scrive: caro Matteo, qualche volta capita che gli uomini azzacchino un regalo. Mio marito, per il mio compleanno, tra parentesi oggi, mi ha appena fatto recapitare in ufficio un mazzo di tulipani e mi ha regalato una camicia che avevo visto in una vetrina piena di camicie. Pensa, lui ha visto quale stavo guardando più intensamente ed ha scattato il regalo perfetto. Lo adoro, non sbaglia mai. Quindi, oltre che un marito, anche un veggente. 800240024. Invece, solo donne che hanno ricevuto regali orribili e che magari non hanno avuto il coraggio di dirlo, ci pensiamo noi a farlo. Oppure 349-238-6666 e l'SMS. Arriviamo invece al mio regalo sbagliato: sono un paio di scarpe col tacco. Le scarpe. Scarpe da donna in vernice nera con plateau, modello décolleté, numero 37, altezza tacco 8 cm. Perfette per sentirsi belle e sicure nelle sere di gala, ma anche al lavoro. Valore commerciale 80 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Penso che la vera differenza tra uomini e donne stia nell'abbigliamento. So che può sembrare riduttivo, che esistono differenze sostanziali, ovviamente, però in effetti nella vita di tutti i giorni la cosa che mi colpisce di più è la maggiore libertà di scelta nel vestirsi che una donna ha rispetto a un uomo. Nel senso che di fatto, a meno che un uomo non sia, che so, Morgan o il mago Thelma, la sua divisa è più o meno uguale a quella di tutti gli altri uomini, no? Pantaloni e giacca, oppure jeans e camicia, un bel maglioncino. Punto. Anche i colori alla fine sono sempre quelli: blu, grigio, nero, se proprio sei un po' country, marrone e verde. Invece una donna ogni giorno può sbizzarrirsi. Anche adesso, ad esempio, se guardo fuori dallo studio, attraverso il vetro, tutte le donne che vedo in redazione, tutte hanno addosso gonne, pantaloni, abiti, camicette, qualche maglia, maglione, insomma tutta roba diversa. Per farmi capire, da piccolo per me era normale avere lo stesso maglione della Best Company di un mio compagno di classe. Ma se mia sorella aveva lo stesso cappotto di una sua amica, era la fine. Quello che voglio dire è: per quale motivo un uomo non si può mettere una bella gonna. Non sto pensando a quelle gonnelline ridicole che ci si mette per carnevale, che ti lasciano scoperti i polpacci e i peli da scimmia. Immagino una bella gonna, elegante, magari lunga, nera. Invece niente. Sempre sti pantaloni con lo stesso taglio, la stessa riga sul davanti. E poi c'è sta roba del tacco. Le scarpe col tacco sono un'invenzione meravigliosa. Non ho idea di chi le abbia inventate, eh? Cioè chi per la prima volta abbia pensato di sollevare la parte posteriore di un piede. Il tacco è una magia, perché le scarpe col tacco non solo alzano la statura, ma proprio cambiano la postura. Cioè, a meno che una donna non sia completamente impedita, appena si infila i tacchi, il suo aspetto cambia. Le si aprono le spalle, il collo si allunga, la testa si raddrizza. Una donna con le ballerine e una donna con i tacchi quasi non sembrano la stessa persona. Giulia non amava le scarpe col tacco, però a me piaceva l'idea di vederla alta, bella ed elegante. E le regalai questo paio di scarpe. Se le mise una volta, e poi più. La verità, le provai anche io queste scarpe. Non che mi stesse prendendo una vena da drag queen, è solo che quando compro una cosa, anche se è da donna, mi piace provarla, per vedere come cade, se il taglio è giusto, insomma, se veste bene. Il giorno in cui le ho comprate queste scarpe, che secondo me sono bellissime, lei rientrò in casa esattamente mentre me le stavo provando. Ora, visto che il mio piede è lunghissimo, non me le ero infilate completamente, ma solo tramite la punta. Ho alzato gli occhi e me la sono trovata davanti con l'aria giustamente interrogativa. Mi ha salvato il fatto che porto il 44 e quindi non potevo essermele comprate per me. Però Giulia, per tutta quella sera, mi ha guardato un po' strano. Se le hai provate? E improvvisamente sembrava una principessa. Camminava per la casa come fosse un leopardo che aspettava il momento giusto per inseguire la sua preda. Lei era una tipa da ballerine, quindi il mio più che un regalo sembrava un messaggio. Però alla fine lo accettò volentieri. E la sera dopo le indossò. La sera dopo era anche l'8 di marzo, quindi non uscì con me, ma con le sue amiche. La vidi uscire con il suo portamento da scarpa con il tacco e poi mi ritrovai da solo, in casa. E feci l'errore che un uomo non dovrebbe mai fare in giornate come questa. Andai a mangiare una pizza da solo la sera della festa della donna. In realtà non sapevo che fosse un errore, anzi ho degli amici che addirittura strategizzano l'uscita dell'8 di marzo da soli, perché dicono che per le donne l'8 di marzo tutto sembra possibile. Sono gli stessi che adorano andare in matrimoni perché sostengono che sia il luogo in cui si becca di più che in discoteca, più che su internet addirittura. Però io non avevo quell'intenzione, io volevo solo mangiare qualcosa. La pizzeria vicino a casa mia sembrava presa d'assedio quella sera. Quando il pizzaiolo mi vide entrare mi guardò come fossi un mostro. Mi chiese se la volevo da portare via e poi mi fece accomodare in un micro tavolino vicino alla porta. Intorno a me era tutto un scintillare di gioielli, capelli ossigenati, rossetti. Nell'aria c'era un odore misto di profumo di donna, mozzarella e pomodoro. Ci saranno state 10 tavolate, piene di donne che parlavano e mangiavano, e ridevano e urlavano, e mentre mangiavano si piegavano verso il piatto e mostravano scollature e collane, jeans a vita bassa e perizoma a fiorellini, calze velate e scarpe col tacco. Mangiai la mia 4 formaggi rossa e poi me ne tornai a casa con nel naso l'odore della pizza e dello Chanel numero 5. A casa ci trovai Giulia, che non aveva né mangiato né mostrato scollature per rizoma, ma teneva in una mano la scarpa col tacco e nell'altra la sua caviglia gonfia, mandando al diavolo la festa della donna, il mio tacco e la storta che si era presa camminandoci sopra. Da quel giorno non le mise più e le abbandonò a casa mia. Ecco perché, nonostante il portamento e le spalle che si aprono, queste scarpe da donna sono in vendita. Il loro valore commerciale è 80 euro. La base d'asta qui sono 99 centesimi. Per raccontarmi di quel regalo completamente sbagliato, solo le donne, 80024-0024. those hips. She's got me whipped, and it's just too hard to resist. What a woman. 16:20, questa è Radio 24. Intanto al 349-238-6666 mi scrivono: mai regalare lingerie ad una donna. Se è larga dicono che le vedi grasse, se è piccola pensano di esserlo. Invece riguardo alle scarpe da donna, Massimo scrive: così ti incastra, la sposi e quando si toglie le scarpe col tacco ti accorgi che hai spodato un barilotto. È un sacco di buon umore qui, avendo tutto, diciamo, da parte degli uomini. Spero non sia altrettanto da parte delle donne. Ecco perché voglio sentire subito Monica. Pronto? Pronto? Monica, sei tu? No, sono Michela. Sei Michela, perfetto, scusami. Ciao. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Di dove sei Michela? Io sono della provincia di Milano. Ok. Ormai Monza e Brianza. E questa è la mia bimba che piange. Oh, che si chiama? Matilde. E quanto tempo ha? Non è ancora 3 mesi. Ah, è proprio appena arrivata? Appena arrivata. Senti, invece, raccontami qual è stato quel regalo che era... È stata proprio una roba che ti ha fatto digrignare i denti. Ma guarda, è stata una cosa indecente, secondo me. Non pensavo ci fossero uomini di quel tipo su questa terra. È capitato a me, un mio ex, avevo 24 anni, adesso ne ho molti di più, e aveva interrotto il nostro rapporto in modo molto vigliacco, poi si è rifatto vivo portandomi la bomboniera del matrimonio della sorella, dicendomi pure che era stata lei a dargli quell'idea, un po' il pretesto per venire da me. Lei è stata carinissima, ma lui è stato veramente indecente. Cioè, scusami, ma non ho capito, la bomboniera che aveva usato sua sorella per il matrimonio? No, lei, se la sorella si doveva sposare, ed è stata carinissima, okay, farmela, certo, avere. Per invitarti? Arrivato... no, per farmi sapere che si sposava, ma era pretesto per venire, per riprendere il rapporto. E tu la tua reazione qual è stata? Ma io ho ringraziato e poi ho tratto le conclusioni, anche se avrei voluto bruciarlo. Michela, grazie mille, saluta la tua bimba, buona giornata. A te un bacione. Ciao, grazie. Andiamo da Elena, spero si chiami Elena, da Roma. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, come va Elena? Abbastanza bene, grazie. Benissimo. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Invece qual è il regalo orribile che ti hanno fatto? È stato per il mio 40° compleanno. Io sono la bellezza di 30 anni che conosco mio marito e 25 di matrimonio. Ah, quindi parliamo di tuo marito, Elena? Sì, parliamo di mio marito, ancora dell'attuale marito. Spero che lo rimanga, cioè spero che il regalo non sia motivo. Ok, e di che regalo stiamo parlando invece? Stiamo parlando di un mazzo di rose. Ah, beh. Che non mi aspettavo certamente, perché non è abituato a fare regali. Però è arrivato con un mazzo di rose gialle, sapendo che io odio il colore giallo. Ma sapendo o dimenticandoselo? Perché quindi di proposito? Di proposito spero di no. Ah, ok. Però mi conosce da ben 30 anni, quindi sa che io odio il giallo. Quindi dimenticandosi del colore, però quantomeno ricordandosi dell'occasione. Beh, non poteva dimenticarlo. Elena, grazie mille, buona giornata. È stato un piacere. Ciao, in bocca al lupo col marito, intendo dire. Andiamo da Valentina di Milano, pronto? Pronto, ciao Valentina. Ciao. Da Milano, ciao. Ok, mi ricordavi chi eri. Sì, esatto. Avevi paura che sbagliassi anche stavolta. Valentina, esatto. Tu hai ricevuto un regalo orribile. Ho ricevuto un regalo, ma allora, nominalmente bellissimo, sulla carta era un anello acquamarina con due brillantini, molto bello. Che già, guarda, perdonami Valentina, ma è già... tanto, perché guarda che, cioè, trovare l'anello giusto non è facile. No, infatti, ma io devo dire, non sono abbastanza di bocca vuota. Ah, ok, quindi cosa c'era di sbagliato? C'era l'occasione, nel senso che l'occasione era la mia laurea. Era la mia laurea in ingegneria e io l'ho ritenuto un falso omaggio, nel senso che avrei desiderato essere omaggiata per altro. Invece quello l'ho ritenuto un omaggio al mio essere donna, No, però non ho capito, volevi essere omaggiata per cos'altro, scusami? Per la mia laurea in ingegneria. Ah, ok, ok. E quindi cosa volevi, un regolo calcolatore? Qualcosa del genere, un elmetto da cantiere, qualcosa. E invece è arrivato l'anello. E devo dire che questa cosa mi ha un po' turbato. Beh, sì. Però comunque tiraglielo dietro l'anello, mi pare. Infatti non l'ho mai tirato dietro, me l'ho solo tenuta e dopo l'ho anche sposato, anche con un altro anello, devo dire la verità. Quindi sei sposata con quest'uomo? Sì. Allora fidanzato, ma poi no, lo sgarbo, diciamo, non è stato tale tanto da giustificare nient'altro, insomma, ci mancherebbe. Ok, cosa ti ha regalato oggi invece? Assolutamente niente, perché si è svegliato alle 4:30 e se n'è andato a Marsiglia in trasferta. E quindi va bene, ogni scusa è buona, manco per un mazzetto di mimose. Grazie mille, ciao Valentina da Milano. Buona giornata. Andiamo a Napoli da Loretta, pronto? Pronto. Buongiorno Loretta. Come va? Bene, tu stai bene? Abbastanza. va bene. Perfetto, allora dimmi cosa ti hanno regalato. Allora, io in realtà uso sempre, almeno cerco di usare prodotti che non siano testati sugli animali, perché è una cosa proprio che odio. Ok, perfetto. Cosa vado a ricevere? Una Truss. Sì. Non posso dire la marca ovviamente, no. Pubblicità, che è una delle aziende che testano, che più testano i prodotti sugli animali. Solo sugli animali, perfetto. Mamma mia. Lui ne era consapevole oppure no? Non del fatto che tu avessi questa vena animalista, ma del fatto che quelli fossero prodotti testati su animali? Non c'è stato attento, diciamo, nonostante io lo ripeta in continuazione, niente. Cosa ti ha regalato oggi, Loretta? Niente. La Truss. No. Ah, oggi te la regala. Oggi, sì, infatti, sento la volta che sto un po'. Ah, per questo che sei così turbata. Perfetto. Loretta, cerca di passare comunque una buona giornata. Buona giornata a te. Ciao, grazie. Ciao. Siccome continuano a scrivermi al 349-238-6666, primo, cosa te ne farei con questi soldi? Ma soprattutto poi, quando te ne vai, io vi dico, presto me ne andrò a fare tutto questo. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Roberto scrive: se questi sono gli errori, noi maschi italiani siamo dei fenomeni e sinceramente non gli do torto. Grazie a Laura Faginti, Sano Bonini, Alessandro Genovesi e Fabio Rudi Cantadori. Per vedere le scarpe andate sul sito radio24.it. Io domani invece vendo la webcam con cui ho parlato con la mia ex a migliaia di chilometri di distanza. A tutte le donne che ci credono invece auguri di buon 8 di marzo. A quelle che non ci credono, meglio così. Love, love, love.